Toscana non c'è davvero pace per le volpi. La stagione venatoria è finita, ma ci sono amministrazioni locali che approvano delibere per consentire la caccia anche in questo delicato periodo dell'anno, dedicato alla riproduzione. Era successo a Siena qualche tempo fa, dove però la provincia alla fine decise di ritirare il provvedimento di riapertura alla caccia in seguito alla mobilitazione straordinaria di attivisti, associazioni e anche all'appello preparato da Restiamo Animali, con la consulenza di alcuni esperti, e sottoscritto da scienziati, intellettuali, personaggi politici. Ora ci risiamo. Stavolta è la provincia di Prato a mettere letteralmente nel mirino le volpi. Nel territorio pratese sarà possibile cacciare la volpe in tana, con trappole o anche per fucilazione notturna. Il tutto fino al 31 dicembre. La mobilitazione per salvare le volpi deve quindi ripartire. E anche stavolta la nostra trasmissione, in collaborazione in questo caso con il WWF Toscana, ha promosso un appello per convincere la provincia a riconsiderare la sua decisione. La questione è la solita. In barba ai saperi scientifici e ai pareri ormai prevalenti fra gli esperti di fauna e ambiente, si consente l'abbattimento delle volpi, facendo un doppio favore alla potente e vezzeggiata categoria dei cacciatori. Da un lato si estende di fatto il periodo venatorio, dando una nuova opportunità di caccia alle doppiette. Dall'altro si legittimano le politiche di ripopolamento con lepri e fagiani, che vengono immessi in natura affinché diventino facile prede per i nostri concittadini che si divertono a uccidere animali, ma che sostengono di svolgere in realtà una funzione sociale di tutela dell'ambiente, una funzione che assolutamente non esiste. Le popolazioni di volpi in natura si autolimitano in funzione del cibo disponibile e si dovrebbe semmai fermare la politica dei ripopolamenti, cara ai cacciatori, i quali poi sostengono che le volpi vanno limitate proprio per proteggere fagiani e lepri. In aggiunta alla questione delle volpi, il WWF segnala anche il caso del lago delle Pantanelle, dove è stato realizzato un intervento di recupero naturalistico, destinato soprattutto agli uccelli migratori che passano in questa zona e che possono così fermarsi in tranquillità. Un intervento che però rischia di essere vanificato se la provincia manterrà la sua intenzione di consentire comunque la caccia nell'area lacustre. Sarebbe davvero una tragica beffa. Sul nostro blog restiamoanimali.wordpress.com troverete il testo della lettera appello sottoscritta da un nutrito gruppo di primi firmatari e che voi stessi potrete sottoscrivere. Fra i promotori segnaliamo Margherita Hack e il biologo Gianni Tamino, il presidente onorario del WWF Fulco Pratesi, il suo omologo della LIPU Danilo Mainardi, il presidente della LAV Gianluca Felicetti e poi il grande sub Enzo Maiorca, il sociologo Valerio Pocar, garante dei diritti degli animali al Comune di Milano, il nostro filosofo e commentatore Luigi Lombardi Vallauri e Luisella Battaglia, grande esperta di bioetica animalista. E poi Licia Colò, nota conduttrice televisiva, e uomini e donne di spettacolo, amici degli animali e dei loro diritti, come Red Canzian, Donatella Rettore, Red Ronnie. E non mancano due parlamentari animalisti, Andrea Zanoni, deputato europeo, e Monica Cirinnà, senatrice del Partito Democratico. La mobilitazione è appena partita. L'obiettivo è ripetere l'esperienza di Siena, dove gli amministratori hanno accettato il dialogo e sono arrivati a un ripensamento. Forza, diamoci da fare, salviamo le volpi. Due appuntamenti per i prossimi giorni. Sabato 25 maggio a Firenze, all'SMS di Rifredi, il Circolo Fiorentino degli Ecologisti Democratici, componente interna al Partito Democratico, organizza un convegno sul tema per un miglior rapporto fra gli umani e gli animali, a partire dalle 15.30. Molto ricco il programma degli interventi, parleranno Alberto Di Cintio, Sergio Gatteschi, Gabriella Costa e Alberto Lenzi del PD, il nostro Luigi Lombardi Vallauri, Candida Nastrucci, ricercatrice contraria alla sperimentazione animale, Maria Romoli della Lida, il consigliere comunale di Scanticci Alessandro Martini e il responsabile della ASL veterinaria del Comune di Firenze Enrico Loretti. il giorno dopo, domenica 26 maggio, l'appuntamento è a Prato, al Circolo No Cage, in via Borgo Valsugana 198, dietro la stazione centrale di Prato. Per una cena benefit organizzata dal No Cage, dagli antispecisti toscani, GATT e La Vera Bestia per finanziare la giornata internazionale contro i mattatoi, che sarà celebrata il prossimo 15 giugno a Firenze con un corteo nazionale. Per le prenotazioni scrivete a circolonocage@gmail.com. Tutte le informazioni le trovate sul nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Con Restiamo Animali ci risentiamo domenica alle 12.